cielo vedo luna, sono solo e aspetto te, emozioni e stelle. Radio accesa, note calde, si impossessano di me, impazienti voglie. La tua voce si avvicina, finalmente sei con me, parlano gli sguardi. Ho mani fredde come ghiaccio che si sciolgono su noi, corpi nudi e caldi. E finché non sorge il sole, sto con te. E tra gocce di sudore, su di noi. E finché non sorge il sole, sto con te. E tra gocce di sudore. Luci spente, cuori accesi, strette forti tra di noi, sento la tua pelle. Prime luci, nuova alba, il motore tra di noi, muoiono le stelle. Rimane il tuo profumo.